Su primu banda sa zaluri e kimi boli beni. Su secundu banda me porotu su ki dozo vendi. Su terzu, su terzu banda sa famiglia porotu su ki mi onara po gusto ki sacrifica. Su quarto banda ene di uno frari primerotu. Su quinto banda frari mate grazie porotu. Su sesto DJ Arni testa sa stanzetta. Su setti e posa basi bideosu in saletta. Sotto, sotto banda chi ne è morto. Verso gusto lì corrente rabondisci da ricordo. Noi poi s'amigo su chi tengo. Ricorda zicca chi non si vede sempre si penso. Deje bo deusu su deus a chi crieusu. Perdona i peccati su chi non su commeteusu. 11 possa vita, possa morte. Questa linea d'esistenza non ti comanda da sta sorti. 12 posso scurio e 13 possa luci. 14 dolori si chi mi buoni in ti cruci. 15 e posso tempo dessa musica in si istanti chi d'ascolto mi indesti prendendo s'anima. 16 pon amori chi non c'è sti cus amori che anga duce non du vuoli brusca desci. Cantu bottiglie se li corianti la so andai. Brindisi con brindisi che inzesi firme mai. Cantu motivo via da buon comincia buffai. Bosca desho puro buon recordai. Cantu bottiglie se li corianti la so andai. Brindisi con brindisi che inzesi firme mai. Cantu motivo via da buon comincia buffai. Bosca desho puro buon recordai.